All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. E ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Applausi. Anche digitali, ci siamo evoluti questa sera. Io sono il Bach, questa è la cena dei regini. Ogni settimana organizzo questa cena in cui parlare di quello che c'è da fare per i nostri eventi, c'è da discutere per quanto riguarda notizie strane e la nostra classifica settimanale. Ricordo che sul sito www.bach.it, cliccando la cena dei regini, potete entrare in contatto con noi, inviarci messaggi, ascoltare le puntate precedenti e quant'altro. E in più, sempre sul sito, il calendario di tutti gli eventi in programma per il mese di agosto, che vanno dalle proiezioni cinematografiche, concerti, spettacoli di improvvisazione teatrale, gioco di ruolo e via dicendo. Adesso uno stacco musicale di Bryn con Dark Matter and Aliens. Wish that you could love me, that the sun could come from every direction and erase my shadow. I just wanna make a melody, listen to your voice close to me, but I can't remember your song, and I keep forgetting your name. Doesn't add up, it's raining like bombs. Shanghai was my best friend. Now that she's gone, I don't know where to go. Blind and tired and losing hair. Shot lasers through your birthday cake. Well, I'm sorry, I've been hungry for money. Money, money, money, hungry for a friend. E della cena dei regini, bentornati ragazzi. Andiamo a commentare assieme le notizie più strane, o almeno più strane di queste ultime giornate che abbiamo trovato sul web. E innanzitutto un'avventura del tutto inusuale, strana per una cassiera romana che ha scelto la Calabria come meta delle vacanze estive per sé e per i propri figli. Questa signorina di nome Simona è venuta in Calabria, dove ha preso una vacanza, una stanza in una casa in affitto, però si è ritrovata con dei problemi logistici con l'albergatore, per cui rischiava di tornarsene a casa. E proprio nel viaggio di ritorno in autogrill ha visto questo portafogli per terra, l'ha raccolto, l'ha restituito al proprietario, scoprendo che il proprietario in realtà era il gestore, il titolare di una catena di location turistica, insomma. E quindi Simona si è fatta una vacanza gratis, o per meglio dire per il costo simbolico di un euro. La notizia è strana, meno strana se si guarda la foto di questa Simona, perché si vede che è una avvenente signora, quindi non è strano che abbia fatto simpatia, se non breccia, nel cuore di questo comunque buon samaritano. È curioso, la Calabria amara, però anche la Calabria che si sa far perdonare in questa vicenda, no? Beh dai, almeno il karma, se vogliamo parlare di karma, l'ha aiutata. Ha avuto sfortuna da una parte e successivamente ha avuto una cosa buona. Ah sì, il karma lì ritorna, ragazzi. No, smetti di guardarti i film sulla Yahoo. Io non guardo i film sulla Yahoo. Se li guardo su YouTube. No. Quando sei licenziato, vai a casa. Ok. Bravo. No, comunque, alla fine diciamo che è la base del karma questo qua. Ti succede una cosa brutta e poi ti succede una cosa bella. Cioè. È un ciclo che si chiude. Ah sì, queste cose veramente curiose. Per un karma anche di ritorno è un po' quello che gli insetti che abitano le nottate, tristemente nottate degli italiani. E invece una startup di 3 ricercatori sta progettando questo cerotto che rende invisibili gli esseri umani agli occhi o alle sensazioni degli insetti, e quindi in maniera del tutto innocua questo cerotto va a nascondervi da questi predatori notturni. Fantastico, direi, perché comunque sì, cioè io capisco, è bello. Però mi è venuta in mente una scenetta quanto particolare. Cioè questa persona che sta ferma, che a un certo punto si sente sbattere da qualcosa, che appunto questo istinto che non percepisce la sua presenza. È una scena quanto comica anche. Sì, prima cercano di evitarti, perché se vedono che sei sveglio gli spacchi una panna in faccia. Ora invece ti sbattono. Adesso vedi, gli sbattono addosso. Ehi, ciao! Quindi si passa dal morso dell'insetto al tamponamento dell'insetto. Questo è il rischio del è il nuovo rischio dell'estate, essere tamponati da una zanzara. Vabbè, comunque la notizia diceva che li troveranno in Uganda, beh, anche per evitare magari la trasmissione di malattie tramite gli insetti. Beh, chiaro, se riescono a essere in Uganda senza farti mordere da insetti, funziona. Sì, varie applicazioni, e questa è sicuramente la più nobile, diciamo. Carino. Ah, sì, ma poi muore tutto il team, ne rimane solo uno che è un mercenario e comincia a far cry. Mettila a digitare videogiochi. E ragazzi, a proposito di videogiochi, comunque imprese fuori dalla norma, un 18enne americano si è costruito in casa un sottomarino monoposto funzionante. Cosa incredibile, ma ancora più incredibile è il fatto che ha utilizzato per tutto dei materiali di recupero, e quindi ha speso meno di $2,000 solo in materiali e 6 mesi di lavoro, che è veramente una cosa irrisoria. Pensate che ha costruito un sottomarino funzionante, fantastico. Bene, magari abita a 2000 km dal mare, lo tiene in garage. Vasca di casa sua. Però voglio dire, ce l'ha fatta e questa è... Andrea, questa è una buona notizia. Tira fuori i progetti di Iron Man. No, non hai capito niente. Io a caso c'ho progetti funzionanti per le aeronavi. Voglio contattare. Ci manca solo una nave. Non è facile a trovare. La flotta è pronta. I pirati del cielo di Andrea. È per un diciottenne sveglio e comunque... Questo sì. Assolutamente... Ha fatto un lavoro che è da invidiare. Lo devo, ce n'è un altro che ne ha l'ha combinata grossa, però in maniera particolare. Ma no, non avevamo detto di non parlare di Andrea. No, a parte lui. Questo ragazzo... Questo ragazzo ha chiamato la etichetta discografica Sud Pop Record, ovvero la storica casa discografica dei Nirvana, chiedendo di Kurt Cobain. È successo la settimana scorsa. Il messaggio recita: è possibile far partecipare al nostro evento anche Nirvana? Qui li amiamo molto e sarebbe un'ottima occasione di rilancio per loro. E sì, una proposta da un po' che non sono. Ma non si vede molto in giro. Ma no, ma sai, aveva avuto dei problemi, non ricordo, forse con un'arma da fuoco. È timido. No, avevano avuto un problema con un'arma da fuoco che così. Ma cose irrisolvibili comunque. Assolutamente. No, figurati, un po' di tonsillite. Tonsillite. Sì, qualcosa del genere. Questa proposta un po' tardiva forse è arrivata e tra l'altro la casa discografica ha avuto la bella idea di pubblicarla sul suo sito dove sta ricevendo le critiche. Il mail era con la data di 10 anni fa. Sì, è difficile da credere. E per concludere, quando si dice cose strane per occasioni strane, i 7 gadget più strani del matrimonio di Kate e William. Ormai siamo già passati alla fase 2, al Royal Baby, quindi che è uscito la simpatica citazione di Harry Potter su questo Royal Baby. Ah, sì. Perché dicono lui è puro sangue, cioè figlio di è un principe. Mm-hmm. Lei è una normale persona e l'hanno chiamato il principe mezzo sangue. No, terribile. Vabbè, anche William, alla fine, cioè Diana non era proprio, no, Diana se non sbaglio aveva delle nobile, mi sembra avesse delle origini nobiliari, che cosa, ma lavorava in un asilo se non ricordo qualcosa del genere. Ma sì, sono quei nobili di basso profilo che si usano adesso. Certo. Quei nobili alla Frank Miller di adesso, no? Se sei figo, però fai dei lavori normali, si sa. Comunque, Kate e William, grande evento, grandi personaggi. E i 7 gadget più strani partono dalla pizza Kate e William. Questa pizza che li ritrae usando olive e quant'altro. E che tra l'altro è un pezzone indifferente, 500 sterline. Che 500 sterline per una pizza. Per una pizza, che ritrae... Ma è una di quelle piccole rotonde. Prendo una margherita. No, rotonde, però è notevole, ma si prende una margherita. Che poi non so come faccio gli ingrati a prenderne anche un pezzo. Loro che adorano chi li regge, chi li gestisce, attaccare un pezzo di Kate e William dal centro. Ma soprattutto quando tu vuoi una pizza così tanto la mangi. Penso che la incornici e te la tieni là nel muro finché è dura. Non lo so, io quando vengo preso dalla fame. Ma tu con una bella foto in realtà di napoletano, per esempio. Subito, 3 volte. Pensa che bello. Non capire il fascino di napoletano. Lasciami le labbra di Kate che sto tornando da lavoro. Lui lascia questa fetta. Altro gadget assurdo, il frigorifero, una cosa veramente incredibile, questo frigorifero che ritrae la loro immagine sui sportelli. Perché? È difficile da spiegare. Li vogliono sempre a pranzo. Mentre cucinano, sempre presenti là. Ma come ma c'è la loro immagine disegnata anche sulla tavola del cesso? Sì. Bravi. Stai scherzando? No, ci arriviamo più avanti. i preservativi di Kate William, cosa che non hanno abbiano dato. Ormai è un po', perché non funzionano. Ormai è un po', fuori target questo articolo, quindi andiamo avanti. Le bustine del tè. Beh, inglesi. Questa che li ritraggono in maniera che quando la bustina va ad ammollo la figura di Kate William resti fuori, come se stesse facendo un bagno. Fantastico. La birra di Kate William, per sottolineare le serate più esclusive. Il coprivater di Kate William. Quelli che non erano molto d'accordo col matrimonio dicevano, e diciamo, come coppia facciamo cara. Posso no. No, non solo, no. C'è anche il coprivater è un oggetto che comunque per chi li vuole avere vicini nel momento del bisogno. Perché nel momento dei bisogni. Per chi vuole criticare la del tutto la coppia, c'è il sacchetto per vomito di Kate William. Questo sacchetto che è possibile utilizzare nei momenti ancora più difficili. Potrebbero portare in Italia, sono sicuro che con qualche faccia diversa anche gli italiani lo userebbero. Di sti tempi. C'è la tuta di Iron Man di Kate William. No. Però ho visto una foto di Iron Man col tutù e al posto delle luci c'è i cuori. Panda, dimmi, ti ho detto di tornare a casa, ti sei licenziato. Ragazzi, continuiamo con un po' di musica. Donny Ozone e Reclaim the Dream. Wahoo! Reclaim the rain. Ragazzi, www.tbac.it, cliccate la cena dei regini, contattateci, seguite su www.tbac.it tutti gli eventi in calendario anche questo mese. E adesso passiamo alla parte della classifica. La classifica questa settimana sono delle 8 cose che è giurato di fare quest'estate tra aspettative e realtà, perché si sa che non sempre la realtà coincide con le aspettative, quindi esaminiamo entrambi i lati della cosa. Numero 8, coltivate la vostra mente. Si parte sempre con questa idea di leggere i 10 best seller indicati al New York Times, però la realtà poi è guardare la maratona di Harry Potter su Sky Cinema. L'ho fatto, ecco. Abbiamo un fan di Harry Potter, oppure mi hanno fatto diventare un fan di Harry per costrizione addirittura? No, perché alla fine mi hanno quasi costretto a seguirli tutti insieme uno dopo l'altro in 2 giorni, 8 film. E alla fine li passiamo. Per fortuna solo i film, ancora a leggere. Cioè sto a leggere, però. Sto a leggere. Panda, quale parte di torna a casa sei? Se no, non hai capito. Torna a casa. Sei licenziato. Ok. Numero 7, provate qualcosa di nuovo. L'aspettativa è iniziare un hobby divertente, ma poi la realtà è riprendere una cattiva abitudine. Quando si dice inizierò a giocare al tennis, inizierò a partecipare all'Aus, e dai, e poi non venite mai. Venite all'Aus, dannati. Venite all'Aus. Giocherò meno al computer, vi brucio la casa. Quello c'è sempre come hobby. Vi formatto il PC, faccio perdere tutti i dati di LOL. Dove devo dire che le aspettative si concretizzano. Ad esempio, c'è stata una settimana, abbiamo organizzato il LAN party, abbiamo giocato ai computer, e poi settimana dopo abbiamo organizzato un Nerf War e ci siamo fraggati davvero con le armi Nerf. Qua è dove i sogni si concretizzano. Apposta, dovete partecipare. Numero 6, resta in contatto con tutti i tuoi amici. Le aspettative, lo Skype quotidiano, la realtà è il messaggino settimanale. Questo specie se uno va in vacanza, ma adesso Facebook e via dicendo hanno creato dei livelli maggiori, però. Danio Facebook. Sì, rimanere in contatto con proprio tutti è un po' difficile. Ma sì, mandi il messaggio di stato. Mi saluto tutti! Ciao! E hai messo il messaggio di tutti quanti i tuoi amici di Facebook. Quindi subito, veloce! E via. Ed è con. Ovvio. Numero 5, classico, viaggiare. L'aspettativa è diventare un jet setter. La realtà è visita dai nonni una volta. Purtroppo c'è, cioè, specie di tempi di crisi, voglio dire, questa cosa è molto sentita perché non è facile per tutti i viaggiatori. Ragazzi, vedete che io quest'estate vado in Finlandia. Poi, ciao! Mi sono mosso da casa. Poi arrivi a Condara, tipo. E poi sei andato a Catona. Ho fatto house, casa house. Cioè, se il più nord che poi hai visitato era Gambari. Forse non ho visitato, in realtà è stato Francia. Quest'estate? Tutta la vita. E al colare quest'estate. Forse neanche a Gambari quest'estate. Gambari non lo vedo da 2 anni. Birra storta. Faccio storta. No. Muso Gambari. Buniti. Sei arrivato almeno a Centoreggio. Di che Muso Buniti? Gambari Mateniti di sopra, però. Mateniti, ma Scilla. Vai a Scilla, almeno vai verso nord, nel senso geografico. Ma io mi vergogno. Fai bene. Numero 4. Fai un sacco di soldi. L'aspettativa è salvare ogni centesimo che guadagni. La realtà è fare uno stage non retribuito. Questo, anche questo in tempi di crisi, è un classico. Fare dei lavori che alla fine non. Se li trovi i lavori. Se li trovi. Se li trovi. Quelli gratis. Se li trovi retribuiti e via dicendo. Parto con il presupposto, faccio concerti e mi pagano, invece devo pagare per fare i concerti. Bella, sì, la vita di suonareggio. Rifiutate, ragazzi, rifiutate. Vedo suonare all'Aus che è me. Se ci paghi, sì. Io sempre. Ecco. Numero 3 è questo. nel cuore di ogni italiano, avere un'avventura estiva. Le aspettative sono una grande storia d'amore, la realtà sono sei sculettine ubriachi che incontri per strada. Questo sempre scritto agli americani, vero? Suppongo di sì, perché sono gli unici che hanno fatto un'icona di questa, di questo, di questa classifica. Qui c'erano sei majorette, tipo sei cheerleader una dietro l'altra, quindi c'è il loro zampino. Numero 2, prendere il sole, un classico. Che ancora io non ho fatto. Neanche io. Andare in piscina. Vedi, anche l'aspettativa è andare in piscina tutti i giorni. In realtà ha piovuto ogni volta che avevo un giorno di riposo. Quest'estate effettivamente. Infatti è piovuto spesso. Dicono che ci sarà una seconda ondata di caldo e poi ricomincerà a pioggia. Che culo. Per meno male. No, perché sai, stasera c'ho il golfino qui a Reggio Calabria. Meno male che torna il caldo. È il tempo suo, è giusto che comunque faccia anche il suo caldo. È giusto che ci sia una bella estate. Contiamo che a Roma ha fatto 43 gradi. Vedi? 43 gradi, Dio mio. No, ma questa secondo me è l'estate perfetta. Perché comunque... Per scioglierti. No, no, ma non ha mai fatto tanto caldo. Ma... Cioè io mi ricordo estati precedenti molto peggiori. Sì. Stati quindi l'anno scorso è stato bello, non è stata un'estate forte, questa no. la sento buona, e poi l'importante è che ci sia qualche bella giornata ancora, così magari riesco ad andare in moto da qualche parte. Questa era una mia aspettativa, poi la realtà è fare eventi all'house a ripetizione, portare fuori la moto per portarla dal garage al lavaggio. Il lavaggio al garage. E ragazzi, numero uno che è valida in estate, valida praticamente quasi tutto l'anno, specie in sotto le feste: mettersi in forma. L'aspettativa è esercizio quotidiano, la realtà è hai messo su 2 kg. Ma guarda che la forma rotonda comunque è una forma. Una bella pancetta rotonda fatta quelle col compasso, un cerchio perfetto, cioè la sfera è il più completo, è la forma perfetta. Cioè noi... una bella panza di birra per esempio, l'estate ci sta tutto. Ragazzi, non mettete la tartaruga, mettete il guscio alla tartaruga, che è più sexy. Ragazze, ricordate, ciccia è meglio. Uomo di panza, uomo di sostanza. Tutti giotto siamo diventati adesso. Questa figura geometrica perfetta da inseguire in tutte le maniere. È giusto che sia così. Però comunque si parte con le migliori aspettative, però la realtà è ben diversa. E quindi ragazzi, voi provateci. Le vostre aspettative per l'estate quali sono? Comunicatele su tipac.it, cliccate la cena dei regini e scrivetele, mi raccomando. Se volete anche scrivere come sono andate, se le avete soddisfatte o meno. Ovviamente. Guardate, se vi piace la ciccia, se vi piacciono i magri. Tra l'aspettativa e la realtà, tra la ciccia e il magro, tra tutto quello che sono i vostri sogni estivi, li potete scrivere. Adesso Johnny Broadway in the Paper Ship. 1, 2, 3, 4. But I forgot what I plants lay dry in the open sun. Wanted to show you what's in this heart of mine, but that would have taken time. That would have taken time. E bentornati alla Cena dei Regini. Siamo qui in compagnia dei rappresentanti di due gruppi d'eccezione che ci sono venuti a trovare a suonare qui all'House, e sono i Blue Stones e i Psycho Fellowship. Ragazzi, salutate il pubblico da casa. Buonasera a tutti. Ciao. Che entusiasmo. Perché siamo stanchi. Perché i ragazzi sono stanchi e hanno finito di suonare, ne parliamo tra poco. Innanzitutto, breve presentazione dei Blue Stones. I Blue Stones sono un trio reggino che fa post grunge con sfumature stoner, noise e rock and roll. E breve presentazione dei Psycho Fellowship. Noi Psycho Fellowship siamo pure noi in tre, abbiamo due chitarre e batteria, facciamo una roba un po' noise, post-hardcore, abbastanza ambientata negli anni 90, veniamo un po' da Monza e un po' da Reggio Calabria, ci siamo un po' dislocati nel... Sì, noi però viviamo tutti quanti nei dintorni di Monza e proviamo all'interno di una sala prove autogestita presso il Fob Boccaccio di Monza. Fantastico. Ragazzi, per farvi due domande: come nasce la musica? Qual è l'ispirazione? Se c'è una ispirazione che predomina nei vostri progetti musicali? La musica nasce principalmente per volere questo gruppo mio e poi ovviamente del batterista, perché con lui suoniamo da 9 anni. E come altra caratteristica è che abbiamo cambiato 6 bassisti, tra cui il primo è stato il tipo che hai sentito prima degli Psycho Fellowship, che abbiamo avuto l'onore di avere con noi come compagno di musicante stasera. E niente, una caratteristica patologica di questo gruppo è la maledizione del bassista. Ne abbiamo cambiati, come dicevo prima, 6. Le sfumature ve le ho dette, i gruppi di appartenenza sono grunge anni 90, c'è un momento, particolare in cui nasce una canzone oppure in cui è nato il progetto Blue Stones? Cioè... Niente, un momento particolare in cui io ho visto il batterista a Piazza Duomo a Reggio, mi sono innamorato, appena sceso dal palco gli ho detto: io, senti, io e te dobbiamo suonare insieme perché ho un concerto nella testa, come ha detto Jim Morrison nel film. E poi niente, abbiamo fatto una telefonata a Cosimo all'epoca e Cosimo mi ha detto: ok, lo sai suonare il basso? Sì, lo sa suonare il basso. E il batterista conferma che c'è stata questa... Sì, è stata un po' una cosa alla Pippo Baudo, l'ho scoperto io, l'ho inventato io. Sotto il palco invece mi sono trovato sta faccia di minchia. Psycho Fellowship nascono da questa ritrovarsi in quel di Monza. Sì, sì, ci siamo ritrovati appunto dentro questo centro sociale e fondamentalmente la nostra musica prende ispirazione dalla ganja, cioè nel senso noi grandi cannoni prima di suonare, facciamo lunghissime jam session in cui ci dimentichiamo di cantare, infatti siamo abbastanza strumentali per la maggior parte. Dimenticate anche chi siete. Sì, soprattutto quello, cerchiamo di trascendere. Per questo sono strumentali, perché non avete nessuno che riesce a reggere talmente. Sì, esatto, urlo io soltanto ogni tanto quando è finita la canna. Dobbiamo sentire, passate dal coro. Esatto, sì. Ma voi siete tendenzialmente di origine reggina, o sbaglio? Sì, due dei componenti su tre siamo di Reggio Calabria, siamo nati e cresciuti a Reggio Calabria e trasferiti chi da più, chi da meno in quel del nord. E ragazzi, parlando dell'ambiente musicale reggino, cosa c'è da dire? Guarda, la fotocopia della serata di stasera, cioè ci aspettavamo un grandissimo pubblico, c'è stato un discreto pubblico a livello di presenza, e infatti lo ringraziamo. Ma certo, non come qualità. ci si aspetta sempre di più. Cerchiamo di organizzare questi eventi con più gruppi, con più situazioni, anche ti ringraziamo anche per la location. E poi niente, cioè, ci aspettiamo sempre di più di trasmettere la nostra energia al pubblico e che il pubblico la trasmetta a noi quando viene a sentirci, perché comunque bisogna svegliarsi a Reggio Calabria, parliamoci chiaro. Certo, e l'ambiente reggino per chi vive comunque adesso una realtà diversa da quella di Monza, che suppongo sia diversa? Sì, è completamente diverso, infatti per noi, io sono andato via 6 anni fa da Reggio Calabria e devo dire che rispetto a 6 anni fa l'ambiente reggino, tutta la scena musicale reggina ha subito un netto peggioramento, un netto calo. Non ci sono stati più nessun gruppo che si è evoluto, tranne i gruppi con cui abbiamo suonato noi questa sera e con cui abbiamo suonato anche un'altra volta qui a Pasquetta, che sono gli Orme Friends. Sì. Tranne loro, che sono gli unici che mantengono una credibilità, che contengono una costanza nel fare le cose. Ormai ci ritroviamo senza più posti dove suonare, con magari pochissimi, cioè pubblico proprio sparuto. Fortunatamente noi questa sera di pubblico è stato abbastanza discreto, come diceva Roberto, però si fa davvero, cioè, si percepisce una mancanza di cultura su quello che è un live, su che cosa vuol dire andare a vedere un concerto. Aspettative. Sì, le aspettative sono veramente basse. Tutto quello che ho visto io sono concerti un po' fighetti, dove più magari si dà risalto a DJ set. Ma comunque io dico soltanto una cosa: per quanto mi riguarda, io ho capito che i concerti a Reggio Calabria bisogna inventarseli. Perché non ci sono i posti, non ci sono le persone, e se ci sono le persone dormono in piedi, per quanto mi riguarda, io questo penso. Ma più che altro la situazione, secondo me, dal punto di vista del, come dicevamo anche prima, insomma, sì, prima sera, abbiamo chiacchierato un po', è più che altro è tutto sintomatico della concezione tipica del reggino medio. Come giustamente diceva anche il Bach stesso, il reggino medio è il perdente, perché è il primo che si tira giù e che si sputa nel piatto da solo, e questo rende, e questo veramente è il male, che poi comunque ritorna tutto sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista, diciamo, politico, tanto per un esempio, diciamo, commissariati, nessuno smuove il culo. Purtroppo l'unica soluzione per gente, secondo me, che può e vuole fare qualcosa è quello di andarsene altrove, perché altrimenti il 98% delle volte si rischia di rimanere completamente invischiati nel sistema che c'è qui, cioè si rimane fagocitati e parte integrante di qualcosa di malato, ed è frustrante, soprattutto per chi sta fuori. Chiaro. Che tra l'altro uno del, secondo me, dei problemi cardini per l'arte in questo periodo, voi mi sarete concordi, è anche il problema delle retribuzioni degli artisti, cioè il fatto che gli artisti sono considerati tipo le scimmiette nel circo, no? Che dici, vai, balla, canta, poi torna nella gabbietta, via. Sì, sì. Come voi vedete, se avete inquadrato una formula per avere una retribuzione dei vostri progetti musicali, per farne un lavoro, come avete pensato, avete trovato, avete qualcosa da chiedere? Chiedo l'aiuto del pubblico. questo è già quanto. Io credo che cambia domanda, non lo so. Al momento del 2013 questo non può essere un lavoro. Totalmente. Non può. Cioè, nemmeno un lavoro considerato normale 10 anni fa è un lavoro adesso. Figuratevi questo certo. Guarda, poi noi partiamo proprio da un presupposto diverso, nel senso che nel momento in cui abbiamo deciso di tirar su il gruppo non abbiamo mai pensato che questo potesse essere il nostro lavoro. Nel senso che l'abbiamo sempre fatto mettendoci la faccia, autoproducendo le cose. E io stesso vengo da una storia di autoproduzione, sempre tutti gli album in cui ho partecipato, in cui ho suonato, la maggior parte dei locali e delle serate che ho organizzato io sono state totalmente nello spirito del do it yourself, sempre e comunque, perché credo che le forme di arte riescono a passare più per la proposta che per la retribuzione, perché anche perché la retribuzione, cioè, la retribuzione agli artisti, la gente quando gli dice, cioè, dice no, stai, non ti posso dare niente, ecco, ah, è là il periodo di c'è da dire una cosa, questa cosa è uguale sia al sud che al nord. Sì, è uguale, uguale sia al sud, cioè, che al nord, non cambia niente. Oppure c'è la tipica frase, quanta gente mi porta, sì, esatto, che è la frase del secolo, secondo me. Sì, esatto. È la, no, la frase, cioè, cardine degli ultimi 20 anni che mi sento ripetere da quando ho iniziato a suonare, cioè gestisce i rapporti tra impresari e artisti, sì, sì. Perché noi mentre suoniamo ci occupiamo anche delle bevande, non, ci occupiamo delle entrate, ci occupiamo di un po' di tutto. Io mentre suono do da bere anche al pubblico, lo distribuiamo contemporaneamente, non si vanno, diciamo. Eh sì, quel progetto famoso. Posso fare un inciso? Detto anche proprio qui, tra noi in amicizia, che questa serata tutto l'incasso degli ingressi sono andati agli artisti, una cosa che secondo me mi confermerà, sì, una cosa positiva, che comunque gli incassi noi li utilizzeremo anche per appunto i nostri progetti, come diceva Cosimo, autoprodotti, quindi le stampe dei dischi, ovvio. Duplicazioni varie, registrazioni, insomma l'autofinanziamento del gruppo, anche questa cosa è una cosa in cui far crescere il pubblico, per esempio, cioè, noi all'entrata ci siamo sentiti in dovere col pubblico di regalare un'anteprima del disco, un MP3, perfetto, perché ci sentivamo di farlo per ringraziare chi è venuto, anche chi ci segue sempre da tutte le parti, e quindi così ho fatto questa sperimentazione di sì, di retribuzione all'ingresso, no, sarebbe bontà, no, però secondo me è giusto, no, è comunque bontà, esatto, capisci, sì, cosa intendo, una collaborazione, beh, secondo perché, me è alla pari, ti rimane ricordo, qualcosa a parte la serata, sì, ti rimane il ricordino, esatto, della serata, giusto così. E ragazzi, musica e seguito musicale, il vostro seguito, i vostri fans, i vostri... I nostri fans sono mamma, io adesso chiedo la telefonata a casa. Cioè, mamma, grande, cioè, chiamo mia madre, che tra l'altro oggi ha sentito in anteprima il pezzo e che ha detto? Ha detto ma sei tu che canti, ma sei tu che canti, ho detto io, così dicono. Come gestite il rapporto col seguito? Come lo gestiamo? Cerchiamo di scherzare col pubblico quando viene a sentirci, di interagire, di prenderli per il culo, di farci prendere per il culo, di prenderci per il culo a vicenda mentre suoniamo, e di renderli partecipi mentre ci vediamo il culo da soli, capito? Tipo, sì, un'interazione anche tramite le nostre pagine, che so, partecipazioni, domande. Di solito ai sondaggi non ci caga nessuno, però comunque ci proviamo, dai. Un seguito c'è. Un seguito anche c'è. Abbastanza affezionato. Perché comunque noi suoniamo da tanto tempo e comunque siamo lo zoccolo duro della situazione, quindi ci seguono. Che ormai siete... Sì, ci seguono, ci conoscono almeno a Reggio, poi sì, certo, abbiamo suonato, certo, anche in Sicilia, in Calabria. Però sì, sì, comunque il nostro obiettivo è andare a suonare fuori adesso. Dopo la pubblicazione del disco, quello è l'obiettivo primario. Cioè, per noi è completamente diverso, perché noi esistiamo soltanto da 6 mesi, stiamo iniziando a suonare in giro da poco, da 3 mesi, quindi è ancora un po' difficile per noi di parlare di seguito, anche se comunque abbiamo tutta una serie di amici che già ci stanno seguendo, ci stanno sponsorizzando, tipo io che mi sono scialato stasera a sentirti, quindi stiamo riuscendo anche soltanto tramite il semplice passaparola, così come funzionava negli anni 80 e 90 quando si organizzavano i concerti hardcore, tramite le telefonate a casa e non come adesso molto semplice, la mail, Facebook, MySpace, Spotify, cioè una volta c'era la cassettina che tu la spedivi e probabilmente non arrivava mai, quindi era completamente diverso, cioè l'approccio era completamente diverso. Noi ci stiamo rivolgendo più su questo tipo di approccio qui per adesso, perché abbiamo tutta una serie di, diciamo, di contatti anche amicali in tutta Italia, e stiamo provando a girare un po' così. Infatti abbiamo già suonato in Veneto, abbiamo suonato in Calabria, abbiamo suonato in Emilia, stiamo suonando in Lombardia, insomma stiamo cercando di girare un po', soprattutto pure abbiamo un programma adesso di uscire con il disco che è già registrato, mancano solo il missaggio e il mastering. E ci arriviamo adesso. E le voci, sempre le più cioè, no, le voci un abbiamo un amico che ci farà una collaborazione. Uno che resta sobrio, sì, per, esatto. per fare le voci. Fantastico, ragazzi, le prossime date in programma, i prossimi progetti? Le prossime date sono dentro la mia testa. Apro testa. Sembra che il disco sia adesso. Sì, no, boh, il disco è l'obiettivo primario, come dicevo prima. Poi le date, secondo me, questa è l'estate dei festival. Cioè faremo tanti festival dove i gruppi di Reggio di musica inedita e non solo, anche se ci sono degli amici con un gruppo di cose, collaboreranno per questi festival, non lo so, nei Lidi, ovviamente Lidi, non Lidi che conosciamo tutti, bensì Lidi che permettono di ospitare queste location, questi eventi. Sì, comunque festival e anche... Sì, c'è il concerto Oxygen per lì a Saline, dove sì, dove parteciperemo sicuramente per contribuire alla causa. E poi niente, festival, queste cose qui, oppure dei live sempre a due gruppi come questa sera. Però comunque in progress, perché come sempre bisogna sempre invertarsi con certi. Esatto, sì. Cioè, Copano, noi cosa da settembre iniziamo di nuovo un po' a suonare in giro, abbiamo già un po' di date in programma, soprattutto in centri sociali di Milano e provincia, Mantova, un po' di robe così, un po' tutto in divenire, perché praticamente con l'uscita dell'album vogliamo fare il tour. Chiaro. Quindi se ne parla di fine settembre, ottobre, di poter fare questo giro principalmente nel nord Italia tra settembre, ottobre, novembre, e poi magari se fosse possibile se riuscisse a fare un tour invece a dicembre, di toccare di nuovo queste parti qui della Calabria, della Sicilia, come abbiamo fatto fino ad adesso. Poi dimmi se sbaglio, il fatto di essere comunque dislocati in zona Milano-Monza, forse per voi è più facile prendere date in più. Beh, sicuramente, geograficamente dico. Geograficamente, guarda, sicuramente è completamente diverso rispetto a quando io stavo qui, perché nel senso qui noi quando ci organizzavamo per andare a suonare a Lamezia o a Cosenza o a Catanzara era il panico più assoluto quando dovevi metterti sulla tua strada a dire la Salerno-Reggio-Calabria, la Salerno-Reggio-Calabria, soprattutto quando partivamo noi partire 3 ore prima, facevamo una ricarica di nachos e di tortillas e le mangiavamo per strada. Occorre andare a posti tipo San Giorgio Albanese con una 600 scassata. Allora ci rinunci, perché comunque devi essere organizzato nel migliore dei modi. Però anche questo fa l'esperienza del musicista. Sì, questo fa l'esperienza, però comunque, come diceva Cosimo, il discorso primario è fare un tour fuori. Quando si pubblica un disco, noi abbiamo pubblicato un singolo con video il 21 di dicembre e adesso dobbiamo pubblicare questo disco, e cui seguirà un altro singolo sempre con video, quindi noi ci aspettiamo comunque la priorità e quindi anche un tour di uscire fuori dalla Calabria, andare in giro in Italia, anche all'estero se possibile. Le aspettative sono quelle, poi ovviamente tra il dire e il fare ci sono di mezzo io, come dico sempre io e gli altri, ovviamente l'angolo della pubblicità. Tanto di sentire caldo, ma voglia di vivo, se vivi una nuova vita. Se magari vogliono cercare il video su YouTube. Sì, su YouTube basta cercare Blue Stones Sick Room Official Video. Perfetto. E vedete quella grande faccia di minchia del nostro amico Emilio, che salutiamo, che era qua. Ci ha ascoltato stasera e che interpreta la parte di un pazzo all'interno del video. Che viene psicanalizzato e praticamente noi suoniamo all'interno della sua testa. Insomma, guardatelo, è da vedere dai, perché ragazzi, è inutile ve lo racconto. Due dai. Domande velocissime. Prima, come dicevamo prima, quanti chili avete perso durante questo live? 7 chili in 7 giorni. Ma quindi effettivamente aiuta. Sì, effettivamente fare, io consiglio più il fitness o la corsa al CONI di fare un live dal BAC, perché effettivamente mi sento meglio dopo aver suonato. Tu farenti ti fai la c'è bronzano oltretutto. Sì, la bronzatura. Sì. Approvi effettivamente. Approvo, si immagina. Sì, è provato, diciamo. Ragazzi, e poi essendo che comunque questa trasmissione è ascoltata discretamente, diciamo, anche da regine all'estero, un messaggio per chi reggini o italiani comunque sono all'estero, potete dire qualcosa? Non tornate! Rimanete dove siete! Che pubblicità! Non vi fate più vedere! No, si no, scherza, solo a Natale e ad agosto! A Natale, se volete tornare a Reggio Calabria! No, a parte suonavo. Se posso dire una cosa seria, cioè al di là del comunque dello scherzo, la cosa bella è quando qualcuno torna dalla propria esperienza all'estero per cercare di far tesoro di quello che hai imparato fuori qui. Mm-hmm. E appunto il gioco è non cercare di rimanere indischiati comunque in questa realtà. Se uno ha le palle grandi quanto una casa per poter fare una cosa del genere, ti prego, torna. C'è bisogno di gente del genere. Fantastico, perché qualche puntata fa abbiamo avuto un ragazzo che fa lo steward sugli aerei e ci raccontava, lui di Reggio, ci raccontava proprio che comunque Reggio manca quando si è lontani, quindi a noi sembra quasi strano. Quindi. È una città bellissima, Reggio, ragazzi, Calabria, attenzione, non è che è la madre, è la madre. C'è davvero, comunque è una grande madre. Un messaggio? Un messaggio da uno che vive fuori e dico, se avete la forza, come diceva lui, intenzioni buone. Questo è un territorio che in realtà secondo me può offrire tanto. Solo che a volte è più semplice come fare come me. Io sono letteralmente scappato a un certo punto, dopo che mi sono laureato, che non ce la facevo. Però se c'è qualcuno più forte di me io me lo auguro. Ragazzi, io vi ringrazio sia della bellissima serata che di queste quattro chiacchiere assieme. Ok, meglio. E quindi ragazzi, un applauso a questi amici. E adesso un po' di musica con i Blue Stones, che ci hanno portato un loro pezzo, Born in a Different Cloud. E chi meglio di noi? E ragazzi, questa era la cena dei regini. Ci vediamo su www.ibac.it. Cliccando la cena dei regini potete contattare il programma, potete ascoltare le puntate precedenti e insomma venirci a trovare. Un saluto a tutti dal BAC e al prossimo giovedì. Ciao.